tutto, cioè, è bello anche ascoltare, perché anche ascoltare è cultura, ovviamente. Sì, quello sì, no, la cosa che mi, diciamo, mi ha colpito di più, la proprio tranquilli, guarda, come una famiglia. Che consigli mi dai, quello tranquillo, gli spiegava con calma le cose, fare quello, cosa mi consigli, cosa come mi consigli, e quello gli rispondeva con una calma assoluta, bella, tranquilla, guarda, è veramente bello. Sì, è piacevole anche ascoltare, è piacevole, sì. Bene, Giancato, Sì, io sì, mi guarda, 2 minuti fa, mi sono seduto così, tranquillo, vediamo un po' se c'è qualcuno per passare un'oretta. Sì, già io il mio panciotto è pieno, il tuo da caricare. Il mio da caricare, infatti, senza chiamarlo adesso, stacco un attimo la radio. Faccio una piccola carichetta e poi se ne ho buio dentro, se no rimaniamo in ascolto. Come sto facendo? No, ma voi mangiamo presto, vabbè, la sera. 8-10, ho esagerato perché mia moglie e mia figlia devono guardare CSI Miami, anche ne perdono una puntata, dunque bisogna mangiare prima così non si perdono un fotogramma. Vabbè, non sbaglio anche per loro quello. Ok, dai, io attore ti saluto, momentaneamente stacco un po' dalla radio. Saluto a te il cuore familiare. Seguici da più dopo, Antone. Mi ha fatto molto piacere sentirti. E addio qualche, ti auguro buon appetito, se nel caso ci risentiamo, dai. Buon appetito allora alle prossime, dai. Ciao Antone, ciao Bruce. Ciao addio qualche. Ha avuto coraggioso pensi a buttare ballena. Ma tu di chi sei, ma bidu ma? Sì. Tu sei su, hai detto che curai, non so se hai detto che cura lui, video, oh Giuseppe. Vedi che c'ho una cosa per una supposta, se la vuole, vedi che gliela offro. Vedi, ma per bocca o per culo? Falcone. non la giubbintesi. Confermato. Sotto un tram. Stavano arrestando e scappate la tua presa sotto il tram. Pensavo che se si abbassava un altro poco ci passava sotto il tram. Quanto sei che prima della cantina faccio soglia. No, praticamente arrivate a quattro semafori, devi svoltare a sinistra. Non te ne dice che non vai a sosso? Che era lì? No, mi sto dicendo quattro semafori. C'è lì semafori, non so, l'ho dato lì. Vabbè, non potete andare a tagliare quei semafori che ci sono. Ma quello dove c'è la strada che va a 6, 2, 7, 7, l'hanno eliminato. Andiamo a mangiare i piatti. Cato ci trova. 15 mila. Ah, era una cosa buona. Poi, vabbè, c'era una cosa con il coso, lo facevano a pizzi. E la schiuma è detta balconi. E lo facevano, no, non lo volevo vazia. Oh. dico, ma è bella, e dice la bada, guarda, è fantastica, perché lei, infatti, che anche in campo, se la vede esce nella bava la bocca. Non è brava, è bella. Fate bravi, fate bravi. E beh, Farchetto. Fate bravi. Certo, Luca. Quando poi attaccano, si schiacciano. Allora veramente fate bravi. Ma non è buona attaccare, non ce la fa passare. Non è buona, io non pretendo nessuno. Gli arriva l'amplificatore. Poi si mette la portata e non parla più nessuno sui canadici. Così mi sono provato la mossa dei coglioni. Tu vuoi l'incazza, boh, ci può anche buffare, va a bugare, ci sentiamo, ciao, ciao, ciao, prendi fare in culo. Bravo, bravo, sono parlo io, Franchetto e Antonio Alessio, dove non mi parlate dall'altra parte. Tanto me l'hai attaccato, lui, ma cosa me la fonte a me se mi sembra burla. Ma così per scherzare, mamma mia, trovi di boh, bucca, boh. Si è avvicinati, siamo di voce, ma guarda, ti vado a te, ma non ti non so. Cioè, io sto per scherzare, se prima stava un cazzo uscito, boom, boom, boom. Ci scherza ogni tanto, ci fa le cose. Ma non piace la mia, guarda come la putti, chi c'ha? Adesso la putti. A parte a me non me la putti nulla, chi mi schiaccia, chi non mi schiaccia, capito? Però poi quando mi schiacciano, perché lo sapete, come poi io se mi incanto mi schiaccio a tutti, anche se ce l'hai attaccato. Mi schiaccio a tutti e allora veramente, ma non ha fatto di nulla, io sono un baracchino, va bene così e no, non mi interessa, capito? Io non lo so, c'è, te l'ha visto così per scherzare, poi già... Se tu mi dici che non mi sono, poi se vuoi mirare a fare un cucco, altro che ti schiaccia, Antonio, boh, ma cosa mi ha appunto? Allora chi c'ha? Mi sta vedendo incazzato. Ma non schiaccio io, schiaccio in diversa maniera, eh. Schiacci, mi dico, ma tu... Io schiaccio un cucco, me ne vanno gli amplificatori. Ah, vabbè, pure io vado, scusa, quando mi so ovviamente, preferisco più, in quella maniera, non un macchino, insomma. Lo so, si schiaccia, siete tutti contenti un vate, cazzo, come ti vede a fare i danni, compresi? Tutti attaccati uno all'altro, lui qua da questa parte, vero perché? Non siamo piccoli neri. No, io sto andando, provo sempre il VAT, sui di VAT. Aspetta, non lo scanda questa qua. Aspetta. I soliti, ho trovato metti importante 10, e uno era 50, non lo so. Comunque la media è 50, ecco, non di più. Tu immagini, tu ti arrivano 9,50, ce l'hai attaccato praticamente, io sono dietro dall'altra parte, manco ti fermo a te, e sono 40. Immaginati tu cosa può succedere se mi metto a dare potenza. Lascia perdere, non me la fotti nulla, me lo sai, no? Mi conosci bene, abbiamo già fatto di queste prove, quindi cosa me la fotti a me? Non ci sono problemi, ognuno esce come le pare e piace. Guarda, sanno le pollottole. Ma non mi vedi, sta arrivando dietro quanti Antonio Bombove. Ma io sono a 4,40. Buongiorno. Se te la ridi, eh. Vabbè, ma tu mi piace un'antenna che sembra qua, sono le cipolle lunghe, ma non te la così. Sono andato alla superiore, normale che segnavo come tanto. Boh, non c'è di lei, boh, quanti fate stai guidando, Anto? Boh, forse 6, 7. 100. Niente, ora. 100, c'è 50. Allora, fate, aspetta, radio, non è che ne hai, Claudio smonta il coso, lo smitter, far che tu arrivi a 9:20 e più. Cazzo, mi meraviglio di voi, siete a 100 metri uno dall'altro, cazzo. Asilo si compra. sarà sul godere del parcheggio, tu sei drumido, cosa vuoi? Hai detto che sei drumido. Drumido, non so che drumido io. Ma se momento, non sono maleducato a parlare sopra gli altri. Già non è come me, no, io schiaccio e parlo. Bravo, bravo, già, stai peccato, sono appena entrato adesso proprio un mattino. Io schiaccio e parlo, poi chi fa, chi c'è, c'è, chi non c'è pazienza. Io Gianni, tutti mi stavano sovrammodulando, e allora io faccio fare guardi a tutti. No, la verità è questa, che ho sentito un po' di bordello, mi sono messo da parte, non voglio entrare nella bagna. Vabbè, si scherza, si scherza. Comunque, vedi, io guardo che attacco la 48 con lei, con tutti i guardi, tu non si imparate a sovrammodularmi. Oh signor, mamma mia, come sto. Claudio, cosa c'è? Che non serve a sovrammodularlo, dai. A me mi stava sovrammodulando. Oh, beh, pazienza, io sono piccolino. Ho detto, come è quello che devo prendere io? E allora, mi stavo provando. Allora se mi è stato uno voi, quando fate, e io non sovrammodulare. Ciao, uno del 40, mi chiamate, sovrammodulare. Beh, allora attacchiamo la 48, collecco così, vediamo di fare togliere le cuffie dalla testa. Finché vado a piazzare in macchina, Vabbè, quando vuoi vieni a prendertelo, tanto me, oggi è passato Massimiliano, se te l'ha portato uno, faccia con un due, ti siamo seguito e siamo a voi. No, tu devi venire a piazzarlo. Tanto lo piazzo io, non c'è problema. Già lo sai. Vabbè, dai, questo bello non mi piace, che non sono abituato. No, sono venuto a cosa, ma Benoit per voi. Che te lo fa fare così? Fate lo stesso, me. Già, già, ma faccio una valuta, Dio. Sì, me l'ha detto, si vede un poco. È a marmite aperte, cambio, cambio. Sì, l'ho visto. In divisa può essere gente grassi. vicino a casa. Attenzione, Claudio. Poi per via, sai, quello che ho sparato, mi sa, non mi ricordo. Ma sempre il problema, quando non so cosa è successo. Carellini nuovi a poco presto non fa. Yes, mamma mia, tutti attaccati, gente, io non lascio, via. Sto bene così lontano io, ma non mi dichiedi a me, hanno sbagliato il cane che dorme, se no poi divento monello e meglio fare la barra. Chi è che c'è rimasto qua? Sono rientrato, vai. Sono rientrato io. Sì, ti abbiamo chiamato, lo vedi? Caffa, no, era un pochettino, ma hai capito, per i fatti miei ero, perché quando sento un po' di casino, qualche cosa che non va, già lo sai, meglio, già lo sai che c'è un caratterino, quindi meglio che faccia altro, hai capito? Ma tu perdonali, che non sanno quello che fanno. Ma se te ne vuoi, se te ne vuoi, se non lo va. Ma cosa state combinando? Se facciamo la guerra qua diventa un casino, eh. Boom, boom, boom, boom. Antonio Rode, Fabi, Antonio Rode, quando non c'è, c'è manca la morocinante, entra lui con questo lineare, ci mette a secondovare, poi ci mette a secondovare a chi? A Claudio Sparviero, Ma te l'immagini che cosa sta facendo, ah? Ci mette a secondovare, a me con Luca, che... Oia, oia. Ma lo dobbiamo schiacciare. Schiacciare. Invece qua me l'ha fatto comprare lui. Ui, ui, ui. Ma lo dobbiamo schiacciare. Schiacciare. Non lo so, Fabio, non lo so, voi cosa mi devo fare qua, non lo so. Ma qua è un giocattolino, naturale. È un giocattolino, è un giocattolino. Quando arriva il vero mostro, te lo faccio sentire l'amplificatore. Come rulla, come rulla. Oh, posso attaccare anche il grande, non c'è problema. Mi dispiace che devo usare lo T50, poi vi schiaccio tutti e non va bene. Claudio. Dimmi. Noi ci sentiamo domenica, capito? No, ma devo sentire, non c'è problema, Se ti serve qualche amplificatore per schiacciare Antonio Grotte, dimmelo, già trovo io. No, no, se hai mai capito per che cosa, già lo sai, no. Per quello che ne abbiamo parlato noi. Via, positivo, va bene, non c'è problema. Sì, dai, ciao, buonanotte, buonanotte a tutti quanti, dai, a tutti di nuovo, e ci sentiamo tutte le alle prossime, dai, ciao, ciao, spengo. Ciao, José, avanti, Gianni. Ciao, Giuseppe, buon cuore, buonanotte, ci sentiamo. Ciao, Giuseppe, buon cuore, buonanotte. Ciao, Giuseppe. No, non t'ho sentito, non t'ho capito, capito. C'è Tarantone venendo? Già venuto. Già venuto, sì. E io sono precoce, faccio veloce. Veloce. Ah. Ma io abbiamo un compressore. Autopompa, Abbassa, là, abbassa, che non si capisce niente. No, non gli abbassa nulla, io no. Non si può abbassare. Di gomma, io lo sento benissimo. Perché lui c'ha una colonia un po' smorzata, capito? La console con la voce, ho preso una 48 e... La pressaletta lo volevo regalare, questa saletta, non si è mai passato a prenderlo, Lo qua è. Cosa? Lo qua è, questo che stai usando adesso. Certo, lui sì, non lo senti il bip, questa saletta con la 48. Bello, bello, bello effetto. Io per te, che non si è passato a prenderlo, visto? L'ho attaccato alla 48, e adesso non l'ho attaccato alla 48. Che poi lo faccio girare anche con quello grande, con tutte le radio. Ah, va. Chi è che c'è rimasto? Gianni? Emmo. Dai, adesso l'ascolto, va. Non ne ho molta voglia stasera. Già ci sta ogni tanto, già lo sai come è Claudio. Già ci sta ogni tanto a fare casino. Ma va a casa tua, gatto, io ho fatto casino. È stato sempre furia. Ora siamo Antonio Rodi a Rocchetta, ragazzi. Tu ne fai da bravo. Tu lo sai che poi io ti schiaccio come quando voglio, quindi tu non mi devi provocare. Lasciami stare da solo e santa pace. Adesso ti schiaccio, Grotte, dove sto scendo? Bene, bene, Fabi. dirlo io, devi tenere di lui perché il riurto. Ma c'è Gigi, una bomboletta stai arrivando, Ma per a tutti, dai. Ho acceso, vi ho sentito, sei entrato a salutarmi. Qui ci sono le casse del supermercato che si stanno accendendo. Diglielo tu, Gigi, diglielo tu, cosa deve succedere, poi se è da farsi di altro lo spagliero. Positivo, positivo. Gigi, dammi un controllo, guarda come sto arrivando lì, guarda un po'. Santiago 9, parlo. Hola. 9:10 qua, 9:15. Stava sovramodulando come stava arrivando. Stato Claudio chiaro chiaro sopra. Ce l'hai in linea d'aria lì, a Tigrino. Ah, sono via, linea d'aria, linea d'aria. Quando sono con Luca tu puoi parlare. Non so chi fosse. Ce n'è stato uno che è entrato e ti ha coperto, non ho capito chi fosse. Quello che ha coperto, c'è stato uno che ti ha coperto adesso, Fabrizio, È entrato nuovamente. Chi è Fabrizio è questo? Allora. Ah. Io sono tutto di schiaccio. Hola. Cibo. Chi è che vi sta facendo ola? Chi è? Il grande è sempre. Ma non sono io Gigi, è Fabrizio con Grode. Ah, quello che ti passa? Io sono che lo sto passando sopra di te. Ehi, come sto? Adesso fai un programma. Sì? Proprio a parlare tutte e due, se ho preso niente. Qualche un altro siete di voi stesso che o c'è uno che vi sta mettendo, che ti mette la portante, non ho capito Thank you. come ci fanno una cioccolata, dottore, ci fanno in lontananza ci fanno con l'interlocutore, cosa stai a sovrabbondare l'uno con l'altro? Il bello è farlo in lontananza a vedere chi ci arriva e chi non ci arriva. Io di ostacoli per nessuno, lo so, non prima per il modo lontananza, quante ne volete? Sopra il più è strano, molti, però anche Gianni ce le ha un po' di picchi. Thank you. ti ricordi un giorno l'ho sentito, stavo ascoltando, era ma come venendo lì campere e cosa, certo, lo sentivo ma proprio a bomba, ascoltavo proprio a bomba Fabrizio. Dire che ascolti nella provincia di Muro che non ci crede una sassa di Santiago 9. E ascolto. Un giorno sei stato a Fabrizio tempo fa sei stato a Fabrizio, stavo facendo le prove. Ma proprio lo sentivo a bomboletta. Fabrizio c'è una buona zona, non è che c'è una brutta zona. Già va bene. Non è un problema quello. Ehi vabbè, quando attacchiamo siamo tutti forti. Bello a fare le prove senza niente. Positivo. Vedi, la mattina che cavolo, la mattina presto, no? C'è Falchetto, ci accompagna sino a vivere, ma com'è il Falchetto la mattina, quando usciamo alle 5? Ci accompagna perché è libero, il canale è proprio libero, chiaro. Ci accompagna sino a, ma com'è il Falchetto la mattina? Così, vabbè, ne avevo tirata io quella radio, c'era 15 watt. Poi il microfono l'avevo messo a posto, già va bene, non c'è problema. Già va bene, parte farsi sentire, ma io già va bene così, non ho ostacoli, problemi, mi sentono tutti, sento a tutti. E quindi va bene, Sassari, da dove sono io, domina tutto, però ci sono quelli che sono attaccati, è chiaro che attaccati, c'hanno dei varchi, delle zone dove io purtroppo non posso sfondare, quindi va bene così. L'importante è che mi sentano in tutto l'est della Sardegna. Don Carlotto, svegliati. Sveglio sono io. Ho anche abbassato a 2 watt, tutto quanto. Non so se mi ascoltate, però sono uscendo con 2 watt. Io sono 5 watt, anzi 10 watt sempre. No, io 2, li ho abbassati. Dici, come mi ascolti? Siete prima te, sei Santiago 9, sì. Se c'hai 2 watt, Santiago 9 qua, sì. No, comunque ho notato una cosa, Cla, che Falchetto è molto positiva per questa zona, per insomma come dalla sulla 131 andando verso per Macomè è buono, però se ti passi dalla parte di Perso Castelsardo, anche per andare a Sosso sulla strada vecchia, per salire a Sosso dalla parte della Marina, me lo perdo a Falchetto, te lo immagini? Invece mi prendo bene gli altri, tutti Gianni Doppio Ru, tutti quel Gio Maria, li prendo a bomba, anche andando verso Santa Teresa e Porto Toro li prendo bene. Invece Falchetto non lo sento proprio, è alle contrarie, hai capito? E lui è positivo dalla parte di, diciamo, da Scala di Gioco andando verso Cagliari. Vabbè, normale, loro sono più aperti verso la zona del mare. Io quando vengo a Pascoli lo stesso ero così, però già parlavo lo stesso con Piruccetto, con tutti. Da qua, che non immagini che Bologna mi arrivi 9 denti, mi sta arrivando, Bologna mi arriva come mi sta arrivando Gianni adesso, con 2 watt e mezzo, con 2 watt, non so, 9,10, con picchia 9,15. Fatti lo conto, tu. Grazie. Alessandro me lo porta a fondo scala, Sandro mi arriva anche a volte, ci sono certi passaggi, mi fa anche 9,40 Sandro, da produttore, sì. Mi arriva molto forte da produttore, sì. Mi arriva più forte di qualcuno di Sassari, Sandro, da produttore, a volte. Facendo per via con la monotone a tutti, dai, vi ascolto perché devo fare un po' di cosette qua, dai, buonanotte a tutti in generale, almeno non mi dimentico nessuno, ciao buonanotte a te. Perché tu parli molto lentamente chiaro, capito? La timbrica della voce deve fare una, sembra un cronista quello che in televisione fa le capito? È proprio bella. Mi ripeto, il 140, l'altro era l'850, sono tenuto a chiedere dopo uno digitale, mentre questo qua mi c'è analogico, capito? E vabbè, sono due cose completamente diverse, no, non c'è problema, avanti ho più brutto. Io adesso vi saluto tutti. Che me ne sto tutto andando, dai, che domani devo stare presto. Ci sentiamo, ci sentiamo alle prossimine, se coincide domani mattina sul tardi. Buona giornata a tutti. Buonanotte Gian, vedi questa di Gian, vedi che bella chiara, bella la radio pulita, questa di Gian è bellissima, non so cosa stiamo operando adesso, ma questa è una bella radio. Galaxy con DM1000. È una bella radio, una bella modulazione, è bella da ascoltare anche questa. Comunque ho sempre detto a Gian che questa è una bella modulazione, a volte è un po' la storpia, ma già si accorge subito come lo rimette a posto. Magari toccando non si accorge, girandosi a destra e a sinistra l'aumenta, l'ha fatto così come è regolata le soglie, l'ho sempre detto che è molto bello. Ti dico comunque, voglio dire Claudio, io ho fatto i complimenti a te, ho fatto i complimenti a Gianni, per te ti tocca un caffè, a metà caffè, a Gianni altrettanto. E non c'è nessun problema. Comunque stai sempre bene anche tu, Gigi, la radio è bella forte e tutto quanto, a me a Claudio ci deve pagare la cena. No, non ti arrabbierai che non ti pago nulla. Guarda, io in tutti gli anni della vita radioantistica penso che forse lo conterò proprio neanche sul palmo della mano quante volte mi hanno detto che avessi una male di radio. Può capitare basso anche poche volte, ma l'ho sempre detto, ma ho sempre curato la radio, ma non mi interessa se il segnale è più basso, però la radio è molto importante, perché arrivare come facevamo negli anni 70-80, arrivare a Villa Cidro, Santiago Vero, ma Radio 5 li capavo tutti, capito? C'era volte con la Kubrick che arrivava 2-3, però radio da schifo, io arrivavo 1, però Radio 5, sempre 5, sempre 5, da tutte le parti mi davano Radio 5. E io come tu ce l'hai nella gola, ce l'hai il amplificatore. Nella gola e anche nel naso, come diceva Dio Tommy, io l'ho detto voce, purtroppo sono nato così. Robe, no, non penso c'è una modulazione, con tutto che... perché usa anche delle cose abbastanza belle e professionali, però non riesce ad esempio anche 140, non riesce a farlo spingere come deve spingere. Io quella radio l'ho avuta qua, è fenomenale, però lui ha sempre questa timbrica diversa dagli altri. Forse le corde vocali, le cose che cambiano, perché io ho sentito anche un giorno, non so se sono di uno, per esempio vedi anche Pomponio Antonello, anche lui ho visto che c'era delle radio buone, perché te l'ho viste. Non è che esce benissimo, solo è la sua timbrica della voce, perché essendo una timbrica di voce tipo la tua, quella è radio, perché lui le ho viste, perché ci sono andato, le ho viste che c'ha delle radio buone, ce le ha con Pomponi. Esce bene, però non è il massimo per il fatto della timbrica della voce, capito? Sì, c'ha la timbrica un po' da gay, capito? Quindi è normale che c'è la voce così, è un po' come Grotti, lo stesso c'ha questa timbrica strana, e quindi cosa vuoi? Non può spingere, dai. dice, adesso tu prendi quanta gente a Sassari, c'ha 140, c'ha il 440, c'ha, adesso prendi Fabrizio, Fabrizio sta usando la varia simile alla mia, la timbrica non è uguale a quella che ho io, sicuramente. Non è uguale, inferiore, infatti non ti devi offendere, è bella la tua, attenzione, perché tu fai certi passaggi con transessuale, ne fai certi che ti assomiglia a te, ti assomiglia, ma ti avvicini certi passaggi, però non è uguale, però è buona, quella di Fabrizio è buona, la timbrica su quella radio è buona, è buona, io non lo so, io non me lo ricordo perché non mi ascoltavo come uscivo, tu lo sai, mi avrei ascoltato, non lo so se uscivo male o bene, la timbrica mia se si adattava al tipo, non lo so, al 140, tu mi hai ascoltato tantissime volte e non lo so come uscivo. Io ti ho sentito e andate bene, anche Gianni quando ho usato il 140 ci va molto bene, Fabrizio esce molto bene, però c'è una timbrica dove c'è la mia, nonostante usiamo le radio simili è una timbrica completamente diversa. Antonio quando usa questa radio 140 per la tua postazione ha una timbrica ancora più diversa dalla mia e quella di Fabrizio, è proprio questione di, non lo so, ma ce ne sono tanti che usano questo tipo di radio, tantissimi, però c'è sempre il fattore della modulazione. Va bene signori, anche per me è giunta l'ora, un abbraccio a tutti, grazie alle due chiacchiere, grazie al Casino, grazie di tutto, grazie Graziella, grazie a Antonio Robbe. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo domani, dai, alle prossimine che è tardi, se no domani me ne alzo neanche io. Riprendi Antonio Robbe. Ah, c'era una battuta sotto, perché ho visto che c'era la placca anche. Ciao Cla, grazie per il questo movimentato e ci sentiamo alle prossime, dai. Un saluto anche al QRA familiare. Veramente non era una battuta ma era una risata. Perfetto, grazie, grazie, grazie al tuo grado. E quella era la battuta, la risata poi era la flacca, capito? Ui ui ui, già siete bravi. Ci sentiamo signore, buonanotte a tutti, grazie della compagnia. Fabrizio riprende, fai girare, per me QRT, a domani signori, dai, ciao ciao ciao ciao. Ok, dai, buonanotte anche a te, al guerra familiare, a tua moglie e a tutti. Buonanotte a tutti, anche io sono un po' grande, non so la minna, perché anche io poi domani devo fare un po' di roba. Però te fatti sentire domani mattina che sono in garage, che tanto devo scendere a fare quel lavoro con chi sei tu e scendi dove vogliamo. Quindi non ti faccio ridere, ti faccio vedere come ho le mani, come ho le braccia, grazie, mi faccio i segni dei guanti, le mani e polsi bianchi, le braccia cazzo rosse, adesso fra le braccia tipo un rattore e la faccia come che mi hanno preso a schiaffi, riprendi da. Ehi, medici, aloe. Stamattina infatti ti ho visto, con quel tetto che riflette anche, bello bello, un po' di solario mai fatto. Gigi, ci sei? Positivo, sai cosa deve fare Fabrizio, deve mettere un po' d'olio, io olio di olivo, olio di oliva extravergine, e così ti facevi da tipo protezione, capito? Un tipo patatina fritta, un po' di sale alla fine. Ve ne racconto una, anni indietro andavo al mare con compagnia di uno macellaio, c'aveva il coso del bancone lì al mercato lì alla Corso Trinità, poi come si chiama, dove c'è il mercato della carne lì. E giorno andavamo, quando andavamo al mare accendevamo il carbone, allora ha portato una teglia di gamberoni, quelli conditi con il prezzemolo, l'aglio, queste cose così, il limone e tutto con l'olio. E cosa è successo? Dopo ci abbiamo mangiato questi gamberoni, cosa ha fatto lui? Si è messo l'olio abbronzante, no? Si è preso tutto l'olio che è già condito con l'aglio, prezzemolo, lui si è accesa la teglia come si chiama, poi avevamo bevuto anche un po' di vino, è tutto bello spazio tutto nel corpo, e poi si è buttato in acqua tipo gamberone. Tutto il condimento dell'olio con limone che c'era, l'aglio, prezzemolo, dei gamberoni, se ne è passato tutto sopra addosso. Schifo, immaginati la puzza. Immagina, se poi si è buttato in acqua, se così, per proteggere dal sole, no? Fabri, così devi fare. Un attimino di quel Rix per me, perché sto andando a prendermi un bicchiere d'acqua. Ragazza, io ne approfitto e vi saluto a tutti, anch'io domani devo fare, e già non mi alzo presto, mi alzo alle 5, dai, mi alzo alle 5 domani mattina, mi alzo, ho anche alle 5 e mezza, mi alzo più tardi, va bene, dai, buonanotte a tutti i signori, dai, a tutti gli ascoltoni, ciao Fabrizio, ciao Antonio Grotte, e se c'è qualche don altro, dai, ciao a tutti. Ciao Gigi, buonanotte, buon 144, ci sentiamo alle prossime. Buonanotte, anche io stavo chiudendo, buonanotte a tutti, e buon 144, e poi domani vediamo, dai, domani grosse, ci sentiamo in verticale, fatti sentire, buonanotte a tutti. Yeah, ciao, buonanotte. Ciao, questa sì, che tutte mangiate te le hai, grosse. Era l'ultimo pezzo, giusto ieri. Quella buona era. Via, caspita, no, le ho tenute bene, sono... Appena scava, no, si stavano conservate bene, era ottima. Tutto come sei andato, già bevuto tutto. Sì, ma non di tutto, di più. E ne ho anche ordinato. Ne ho ordinato perché c'è uno che se lo vende su internet e non sai a quanto. Quindi a settembre prossimo mi richiama, settembre-ottobre mi richiama. Non ho capito, ma cosa fai in internet? Lo stai comprando, non ho capito. C'è questo qua che lo vende le bacche su eBay, e non mi ricordo a quanto le stia vendendo al chilo, e gliene ho ordinato un paio di chili per fare di nuovo la ricetta, capito? Scapparroggia, te le ordini così, a me viene il prendere gratis, e gira gira te le raccolgo, e poi fai te le ordini in internet, e allora questa non le prendi più, No, invece non hai capito, vedi, che è proprio per evitare di approfittare del tuo albero, visto che già qualcuno ne ha approfittato. Appena lo faccio, non so, appena lo compro, non solo l'ho comprato per me, ma l'ho comprato anche per te, così l'albero lo fai riposare, no? Posare nulla, no. C'è una differenza da questo mio a quello, capito? C'è una differenza, questo è il mito del vulcano, hai capito? È il mito del vulcano. Hai ragione G, però da quell'albero già ha approfittato un po' di gente, non mi sembrava il caso, sei stato fin troppo gentile, cosa faccio? Di nuovo ti chiedo di prendere, non è il caso, già c'ho la ricetta segreta. Caparroggia, dai, caparroggia, no, se no che ce n'è già va bene, tanto ne cade, no, e poi se poi tu ne sono passati altri a raccogliere. Che te ne stavano portando via l'albero a ramo a ramo, una cosa è prendere le bacche, una cosa è portarsi via i rami. Due giorni di festa posso fare tutta la parte davanti dove entravano, davanti hanno iniziato a tagliare e mi hanno svuotato la pianta sotto, tagliato per fare forgetto, ragnelle, cose del genere. Cazzo, mi hanno svuotato la pianta tutta da un fianco. Ma già l'avevo vista, già me lo ricordo. E vabbè, dai, buonanotte, ci sentiamo alla prossima.